Mi avete sentito tante volte dire che la parola di Dio e la liturgia sono la fonte di ogni preghiera della nostra fede e quindi bisognerebbe anche approfondirle, anche studiarle. Aggiungo un altro gradino a questo cammino, la storia della Chiesa. Perché non la storia fatta di paci, trattati, alleanze, vicende, ma la storia fatta dalla gente viva, dalla gente santa, perché poi la vera storia è quella fatta dalla gente. Avremmo bisogno, cari amici, di conoscere la storia della Chiesa e oggi vi presento un personaggio che vi confesso anche per me era ignoto se non l'avessi incontrato oggi sul messalino quotidiano. San Martino I, Papa. Ho sempre pensato San Martino di Tours, quello del mantello, e invece c'è questo San Martino I, Papa, che fu eletto nel 650 circa dopo Cristo. Ebbe un pontificato drammatico, perché l'imperatore Costante II, chi ha il potere, ha sempre cercato di dominare tutto, compresa la religione. L'imperatore, sostenitore di un'eresia, voleva imporre la sua volontà sulla Chiesa. Martino riunì in Laterano, non dimentichiamo che prima di San Pietro il Laterano era la sede del Papa, riunì i vescovi, ma fu arrestato e fu messo su una nave per Costantinopoli, un viaggio, pensate, che durò 15 mesi. Provate a pensare che cosa può essere. E fu l'inizio di un crudele martirio. Fu sottoposto a un processo da farsa, fu pubblicamente insultato. A noi può sembrare impossibile, no? Uno dice, ma come un papa? Ma il pontificato a quel tempo non era il pontificato di oggi. Fu condannato a morte e dopo 3 mesi di prigionia fu relegato in Crimea, dove addirittura patì la fame, languì in prigionia abbandonato da tutti, fino a che morì un po' di anni dopo. Un papa. Io sempre più, leggendo questi martiri della Chiesa, amo la Chiesa fatta di persone vive. La Chiesa è fatta di persone vive prima di strutture. Stiamo attenti perché noi siamo sempre tentati di pensare che se una parrocchia ha delle grandi strutture così attiriamo i giovani, ma non è questo il discorso. Se abbiamo grandi chiese così la gente... No, amici, le strutture vengono dopo se c'è la gente, mai il contrario. Io amo la Chiesa che è grande nei suoi figli. Amo la Chiesa che è mia madre, perché se io ho conosciuto Gesù, non l'ho conosciuto per il governo italiano, l'ho conosciuto per la Santa Madre Chiesa, che ha educato tutto il popolo, ha educato le generazioni una dopo l'altra, fino ad arrivare ai miei nonni, ai miei genitori, a me stesso. Grazie Santa Madre Chiesa che mi porti a Gesù e grazie Santa Madre Chiesa della tua fedeltà a Gesù, nonostante le eresie, nonostante le persecuzioni. Capite perché vi dico che è bene conoscere e studiare la parola di Dio e la liturgia, ma quanto sarebbe bello studiare la storia della Chiesa, o meglio ancora la storia della santità della Chiesa.